Ehi, io un attimino che devo prepararmi il piatto, dai. A dopo. Guarda il messaggio. Preparati il piatto. Ehi, come va? A posto? Vabbè, quella è una cosa un po' più... male più, non lo so. La mia è molto delicata, perché fa parte della... delle corde vocali, pensavo il peggio, che ancora non so niente, non si sono espressi, però anche quella non è una cosa da niente, è parecchio, parecchio. Ma come tutte le cose, oggi già si mette a posto. E io ho avuto una frattura scomposta, grazie a Dio si è messo tutto a posto. Ma anche l'infortunio che ho avuto al lavoro, sono caduto dentro un vascone, che mi si è attaccata la spalla. Pensavo di non riprendere più la normalità, invece piano piano con la fisioterapia, eccetera. Per questo, ma tu, a te facevo la fisioterapia, sì. E l'unica fisioterapia è quella di oggi. Bisogna fare movimento, tu già sei giovane, quindi quello lavoro ti permette anche di muoverti, salire, scendere, serve, e sembra così anche quel lavoro che fai. Non è un lavoretto da niente. Credo appunto che ti muovi abbastanza, perché salire e scendere non è che ti trovi in un altro articolato, un altro trattore, no? Appunto, due o tre mesi non hai praticamente ripreso niente. Nulla di niente, quindi quello è già molto, molto importante, perché vuol dire che le cose stanno migliorando, che quindi piano piano sicuramente prenderai l'uso completo. Però ti ripeto, il tuo intervento è molto, molto diverso dal mio. Il mio mi ha fatto un po' preoccupare all'inizio, ti ripeto ancora, non ho certezze su quello che possa esserci dietro, perché questa ciste era praticamente retrotonsillare, quindi abbastanza formata, abbastanza grande anche. Adesso vediamo quando analizzano, quando cosa mi dicono, se devo fare cura, se devo fare, non lo so. Devo aspettare, per il momento va bene così, dai. Non fa che nulla, manca niente, no? Non ci manca niente, no. La cosa che mi hanno detto e mi ha un po' lusingato, perché io questi controlli li faccio molto spesso, troppo con anche le coroplie, su tutto la parte appunto, le vene sono pulitissime, nonostante fumi, che non è derivato questa, non si è creata dal fumo, capito? E quindi c'è una cosa buona, perciò adesso analizzano, perché io purtroppo faccio un lavoro, parole poche di merda, quindi a volte sono molto leggero sul mio lavoro, nel senso che durante le operazioni anche di autospurgo eccetera non uso mai la mascherina, anche se non tocco niente, però sono lì a contatto, sono lì vicino, capito, magari con la sigaretta in bocca mentre lo stanno operando. Durante tante operazioni molto molto pericolose, dove ci può essere un passaggio di batteri, che siano volatili o siano presenti nel contesto lavorativo, e quindi come mi diceva il professore di Torino, che tra l'altro è primario, professor Liu, può essere anche causato dal mio lavoro stesso, e quindi a volte la negligenza dopo tanti anni di lavoro ti insegna che il pericolo è sempre in agguato, oggi hai capito. Beh, adesso tutto febbraio, poi a fine mese, il 24, vado, dopo mi tolgono i punti, poi dovrò fare una radiografia, dovrò fare un ecodoppler, dovrò, insomma, mese di marzo. E dice, io stesso sono come te, l'azienda è a corrente di questa cosa ed è anche tra l'altro molto preoccupata, perché il referto gliel'ho girato direttamente al capo settore e al mio responsabile personale, quindi è anche preoccupato, perché se fosse veramente una cosa del genere, insomma, è brutto da sapere queste cose, perché sì, colpa mia, ma insomma, è brutto. Vabbè, comunque, come ti stavo dicendo, è brutto perché io la mattina mi porto il cane alle 8:30, riesco proprio al limite andare a prendere un caffè, una sigaretta, non ci vuole la coppa, perché non sto fumando, quindi anche se la causa non è quella momentaneamente, ma comunque mi prendo le mie precauzioni, sono già 10 giorni che non tocco niente. E faccio in tempo arrivare a casa, e dalle 10 a mezzogiorno devi stare a casa, a mezzogiorno e 10 esco, vado a fare la puntura qua al Conti, che c'è un infermiere che mi fa delle punture, un amico, e poi rientro a casa e c'è l'ora di pranzo, e mangio, mi riposo e basta. Cosa fai? Dalle 5 alle 7 devi stare a casa, quindi la giornata è finita, non è che mi inizio alle 4, mi riposo, preferisco stare qua in radio a fare qualcosa, però è una paranoia, sì, oggi. Sì, ma guarda, ti posso dire che se vuoi ti faccio la foto e te la mando su WhatsApp, io ho 2 pacchetti sigarette a casa di Camelite, sono chiusi, lo prendo, lo apro e metto a fumare, non mi viene nessuna voglia, capito? Qui non sono, per farti capire che non sono un fumatore accanito. Non, se non ne ho io non ne fumo, oppure se ce li ho che so che non devo farlo, non lo faccio, non sono così cretino. C'è molta gente che io ho conosciuto anche da poco, ma non come me, in fase di attesa e sapere qual è il problema, già diagnosticato, capito? Già diagnosticato, la sigaretta è morta. Non quello che ho avuto io, ma bensì proprio la parte più importante, che sono i polmoni, e continui a fumare, interessante. Vabbè. Evidentemente l'ubriaco da fumo proprio non gli funziona. Tanto che pensai con un buddo sui magneti. Ehi, Otto, lascia la sigaretta, Claudio, cerca di smettere. Piano piano, gradualmente, cerca di smettere, datti all'alcol, che fumo fa male alla salute. Cazzo, non mi fare ridere, che mi tirano i punti, va a far culo, mi dico Natali, l'alcol che ammazza di tutto, il fumo fa male alla salute. Ah, se con questo cacchio di antibiotici c'ho un vino buonissimo che mi hanno regalato prima di star male a Badesi, ma così buono che me l'avevano già dato, e non lo sto bevendo, perché io a pranzo e a cena i miei 2 bicchieri di vino me li faccio anche per le arterie, proprio per aiutare le arterie, perché fumo, eccetera. Se lì in frigo che se ne sta ridendo, bello fresco, mi sa che stanotte me la porto una bella salto che balle già. Veglia, veglia. Bene, bene. Uff, che palle di giornata però. Tutto giorno a dormire e poi si mangia. Mangiare e dormire. Questo è quando mi sento poco bene, anche da 3 giorni in realtà. Sì, ma mangiare e dormire è tuo, Marco. Mangiare e dormire è un po' viziato. Cazzo, non è che sei invalido. Grazie a Dio stai bene. Escitene, cazzo, ti ho chiamato io ed eri sdraiato, che ora è? Era un mezzogiorno, che ora era? Boh, non lo so, forse era anche più tardi, e quell'ora lì è bella, uscire, andare a farsi un aperitivo, un giretto, capito? Anche perché la giornata era molto bella. Quindi il tuo riposo è un riposo che vuoi forzartelo tu. Nessuno te lo impedisce di uscire, capito? Sì, ma te l'ho detto che ieri già mi stava salendo la temperatura. cioè ero leggermente cicciato, non voglio rischiare di uscire e poi mi sale la febbre, capito? Aspettiamo che passi questa tracheite o questi sintomi, dai. Poi posso anche uscire, sì. Non ne ha bisogno le donne, Marco, già ce li ha a casa le donne. Luce, luce, io sono le 8:20. Ma io ho due luci, uno mi segna le 20:18 e l'altro mi segna le 20:18, sono giusti tutti. Le 20:18, fa un po', stacchiamo tutto e ci andiamo a pappare, poi ci guardiamo un po' di sport, c'è la Juventus, e è andata anche stasera, oggi, capito? Va bene, oggi io ti saluto, saluti a casa, grazie delle due chiacchiere, siamo sempre qua. Beh, buona cena, buon tutto, alle prossime. Oggi. Per te sto salutando anche Natalino, c'è anche a te Natalino. Buona cena anche a te. Sì, stamattina era sempre acceso, sono qua seduto, ma se no non chiama nessuno, non entro. Ogni tanto sento qualche portante sul 5 o sul canale 23, però non c'è grande movimento. Però se ci sei la mattina due chiacchiere ce le facciamo. Io sono a casa, oggi è dalle 10 a mezzogiorno che sono a casa. Poi ti ho detto a mezzogiorno alle 10 vado a farmi la puntura e poi basta, poi rientro e mangio, capito? Però dalle 10 a mezzogiorno sono a casa io. Ma l'Impici non viene più e non si impicca l'azienda mia prima di mandarmi un certo referto medico. Poi sono di quelli che poche malattie fa. Va bene, dai, ciao G, buona cena di nuovo, buon tutto, alle prossime. Avanti Marco, se vuoi riprendere, se no mi allontano anche io. Dai, ci sentiamo domani. Sentiamo domani, spero in migliori condizioni. Ciao Eugenio, ciao Natalino, ciao Pomponio, se sei col portatile, ciao Claudio, dai, ci sentiamo domani. Oggi mi voglio riguardare, non voglio rischiare che mi salga la febbre, capito? A domani, ciao ciao. Ciao Arturi, grazie per chiacchiere, dai, altrimenti già ti chiamo domani al telefono per come stai. Ci sentiamo, buona serata a tutti signori, buona cena a tutti. Chiunque fosse qua in ascolto sul canale 10. Notte, notte, notte. Ciao Tatali. Ciao, ciao, ciao Natali.